Buonasera, benvenuti e benvenute alle nostre signore in questa biblioteca che ogni settimana organizza varie attività e incontri per farla conoscere, per promuovere i servizi, ma soprattutto per creare delle occasioni di conoscenza e di scambio con autori e autrici di libri, di ricerche e di studi. Questa sera siamo molto contenti di avere con noi il Laboratorio di Storia di Rovereto, che ha una conoscenza e un'amicizia che perdura ormai da anni, e siamo molto contenti. Sono stati tra i primi a credere a questa biblioteca, perché ancora nel lontano 2004, quando stavamo facendo dei cicli sulla memoria e l'identità, abbiamo avuto il piacere di avere anche il vostro appoggio e il vostro supporto. E questa volta siamo così impegnati con un libro, almeno i nomi. L'occasione ci è stata così segnalata da Giovanni Tomazzoni, che è qui con noi questa sera. Quest'estate aveva portato questo libro in visione e devo dire che è un lavoro enorme, è una ricerca veramente impegnativa, scusate le spalle, è una ricerca impegnativa che ha restituito una dignità, una storia individuale a tantissime persone che hanno conosciuto quello che è appunto il dolore della deportazione e di un periodo appunto della Seconda Guerra Mondiale, che ci approssimiamo a ricordare con la giornata della memoria che avrà luogo lunedì 27 gennaio. In quell'occasione anche lunedì prossimo avremo un'iniziativa. Ci saranno, insieme in collaborazione con l'ANPI di Bolzano, ci sarà anche la comunità ebraica di Merano e ci parlerà delle vittime della Shoah di Bolzano e di Merano. Ecco, saranno con noi Elisabetta Rossi e Joachim Innerhofer. Sarà una serata anche quella particolare e concentrata sempre sul territorio. Io volevo presentarvi appunto i nostri relatori. Diego Leoni stasera è impegnato con un progetto sempre per il 27 di gennaio a Rovereto. Abbiamo con noi Claudia Boscarato e anche Armando Luzzi, che hanno collaborato a questa ricerca. Io li ringrazio per essere di nuovo tornati qui a Bolzano per raccontarci il lavoro che il Laboratorio di Storia porta avanti con grande impegno, tenacia e professionalità da tanti anni, e spero che questo lavoro di ricerca non termini qua, insomma, che vada avanti, perché abbiamo bisogno ancora di scoprire tante cose, purtroppo, del nostro vicino passato. Grazie a voi. Avviso solo approfitto di questo breve spazio per dire che stiamo andando avanti con un progetto di information literacy, cioè come usare l'iPhone, l'iPad e tutti questi strumenti nuovi per muoversi in maniera autonoma nel ginepraio dell'internet. In biblioteca lo facciamo dalle 17 alle 18 di mercoledì. Siccome è impegnativo e ci sono tante persone, abbiamo pensato di proporlo anche il venerdì pomeriggio alle 15, non questa settimana ma a partire dalla prossima. Chi fosse interessato è pregato di prenotarsi telefonicamente, perché dobbiamo fare dei piccoli gruppi. Grazie a tutti, grazie a voi e buona serata. Arrivederci. Provo senza microfono, se mi sentite. Intanto ringrazio tutti per la partecipazione. Se mi sentite continuo così, altrimenti c'è meglio. Va bene. Adesso è acceso? Si sente meglio? No. Adesso va. Proviamo? Adesso va bene. Dunque io vi ringrazio per la partecipazione, inaspettata, anche perché l'argomento non è dei più favorevoli e attraenti. E cade proprio in questo periodo in cui si commemorano questi avvenimenti, per forza di legge si dice, no? Nel senso che è stata istituita una legge, ormai sono 14 anni, e sapete anche che c'è molta polemica su come si ricorda la Shoah e quei fatti, la deportazione, quegli avvenimenti. C'è polemica perché naturalmente la commemorazione porta con sé un rituale, il rituale, la legge porta con sé un dovuto, un obbligo, e quindi in questo si inseriscono anche delle manifestazioni che non sono considerate da qualche critico ebreo non molto accettate, ci sono delle reazioni anche polemiche. Tutto questo è legittimo, ma non sono qua per parlare di questo. Voglio solo, ho fatto questa premessa per dire, questo è un lavoro che nasce umilmente in un laboratorio di storia al quale partecipano dei volontari, insomma siamo appassionati di storia, ma non siamo dipendenti di nulla, e che, trovandosi in mezzo a una ricerca di questo genere, ha pensato suo dovere di portarla a termine. Nasce su un lavoro ancora più ampio che riguarda il Trentino e i Trentini durante la Seconda Guerra Mondiale. La pubblicazione di 3 volumi di un certo peso, c'è anche qui in biblioteca per chi la volesse consultare, all'interno di questo, di questa grande ricerca iniziata circa 10 anni fa. C'era anche un capitolo sui deportati nei lager tedeschi, un capitolo significativo ma non l'unico. C'è la vita civile, ci sono le guerre, i bombardamenti, i dispersi, i prigionieri, i partigiani, tutto quello che era il nostro, la nostra vita in quel periodo. E abbiamo rappresentato alcune figure veramente emblematiche di questa deportazione. Però, finita la ricerca, abbiamo detto, ma gli altri, quelli che non hanno nome, che non hanno visibilità, gli umili, le persone che, come eroi non ce ne sono poi tanti, ma insomma, quelli qualcosa hanno avuto di risarcimento, ma gli altri che nessuno sa chi sono, magari non hanno più parenti. E così abbiamo tentato, con determinazione, con fatica, con impegno, di portare a termine un lavoro che riguardasse tutti i deportati di origine trentina. Siamo arrivati a 202 nomi. Quando il libro fu stampato qualche mese fa, vennero fuori altri 2 nomi. È proprio la cosa tipica di questo genere di ricerche, cioè non si arriva mai fino in fondo. Però se in un anno circa sono arrivati solo 2 nomi su 202, beh, vuol dire che oramai la curva si sta avvicinando asintoticamente a quella che è una rappresentazione totale dei nostri deportati. Perché abbiamo accolto con piacere l'invito di presentare il lavoro, la ricerca qui a Bolzano? Perché molti di loro sono, sì, trentini di nascita, ma bolzanini di elezione, di vita, di scelta. E quindi è un argomento che tocca anche molti nostri concittadini di allora. E molti saranno una decina, non so, ma insomma. E poi 50 di questi deportati hanno raggiunto i lager tedeschi passando attraverso il campo di concentramento di Viareggio. È il nostro campo di Bolzano, non c'è niente da dire, per cui non è un argomento limitato ai trentini, è un argomento che può interessare anche i bolzanini, ragion veduta, lo vedremo dopo. È una ricerca difficile, abbiamo detto. Come si fa? È molto empirico il metodo di ricerca, si deve cercare negli archivi. Certo, anche quelli germanici, anzi in Germania c'è un archivio molto importante che riguarda proprio le persone disperse, non militari, durante la Seconda Guerra. È un archivio reso accessibile agli storici da poco, da qualche anno, 3-4. È un archivio che è passato dalla Croce Rossa Internazionale come titolare della struttura, è passata al governo tedesco, che si è impegnato a portarlo avanti. E l'archivio dell'International Tracing Service, nato come strumento per andare in cerca di persone disperse, ma poi in realtà si è trasformato in un grande archivio storico sui campi di concentramento, sul lavoro coatto, sulla deportazione. E lì abbiamo avuto molti risultati, molto aiuto. Certo che non si può andare con la domanda, mi date i nomi dei trentini, perché non sono archiviati con questo criterio, sono archiviati per, casomai, per nazionalità, ma neanche. C'è un indice generale dei nomi, dove la regola è l'alfabeto, cognome e nome. E sa, scorrerli tutti, sono, mi pare, non so se 6 milioni, 8 milioni. Cioè, è un po' difficile, bisogna già andare preparati. Noi siamo andati con una prima lista di nomi e lì abbiamo trovato riscontri e ne abbiamo trovati degli altri anche. E poi gli archivi delle famiglie. Gli archivi delle famiglie sono fonti ricchissime e purtroppo naturalmente difficili come accesso, non perché le famiglie chiudano le proprie carte gelosamente anche, ma non è questo il problema è che non si sa dove andare, non si sa chi sono i discendenti, quindi anche lì la ricerca lunga. Bene, siamo riusciti alla fine a trovare un risultato, lo vorrei esprimere con pochi numeri, anzi una sintesi. Trentini portati nei lager oltralpe sono più di 200, ora la cifra precisa ad oggi è 204. Altri che non sono andati oltralpe perché hanno avuto la fortuna di essere presi nelle ultime settimane, di non avere i trasporti possibili o perché erano stati utilizzati come manodopera a Bolzano, sono circa 170 e sono altri deportati, ma non oltre Brennero. Poi abbiamo una trentina di persone significative dal punto di vista della storia, ma sono molto di più ovviamente, che sono finiti in penitenziaria e in carcere, e in totale sono più di 400 persone, è la nostra fetta di storia trentina di quel periodo. Qui è il dettaglio come risultato della ricerca, dove sono stati immatricolati questi 204, principalmente a Dachau. I quattro campi per noi grossi sono Dachau, Mauthausen, Buchenwald e Dora Mittelbau, che inizialmente erano unite e poi sono separate, e Flossenbürg. E così via, altre categorie di parificate ai deportati, apparentati deportati, che sono i condannati dai tribunali speciali per attività politica oppure i disertori delle forze di polizia ausiliaria del corpo di spedizione, del corpo di sicurezza trentino. Naturalmente una volta immatricolati, no, naturalmente non per niente, ma una volta immatricolati subivano dei trasporti da un campo all'altro a seconda delle esigenze di sfruttamento del potenziale di manodopera massicci, anche con cambi di 2, 3, 4, 5 campi. Qualche volta venivano rimatricolati. Anche qui si trovano notizie, magari sulle liste di trasporto. Questa è una lista di 1000 deportati trasportati da Dachau a Natzweiler, in prevalenza francesi. Ho evidenziato due nomi: Groff, perché è uno dei nostri 204, e Jean Sully, un francese, di cui parlerò dopo. Tenete conto che qui è su questo trasporto insieme al nostro prof. Quale destino hanno avuto? Beh, un destino molto amaro, e i non sopravvissuti sono in numero inferiore alla media degli italiani deportati. Probabilmente la cifra non è tale da consentire un confronto statistico. Comunque, il risultato è che dei deportati nei lager sopravvissuti sono 63 su 173, mentre i deportati nei lager dipendenti dal Ministero della Giustizia o nei lager, chiamiamoli militari, avevano un destino migliore, o meno peggiore, meglio dire, e quindi sono sopravvissuti in maggior numero. In ogni caso, su 204, 111 sono i deceduti e 93 sopravvissuti. Io farei alcuni casi per capire chi sono questi deportati, perché sono finiti lì. Ne abbiamo più di 20, 22 mi pare, se non ricordo male, che sono stati catturati in Francia. Erano trentini emigrati. Qualcuno di loro aveva già acquisito anche la nazionalità francese. E qui ne ricordo quattro. Mi limito a far vedere le loro foto e ricordare i loro nomi: Sartorelli, Poli, Andreatta e Giacometti. Cosa hanno in comune questi? Che sono tutti quattro dalla Valsugana. tutti e quattro saranno caso nati in aprile, non dello stesso anno, ma sì, sono tutti di aprile, tutti e quattro presi per prigionieri verso la fine della guerra, quando arrivavano oramai gli alleati nella zona dei Vosgi, dove loro si trovavano a fare operai o boscaioli, tutti portati a Dachau, da lì smistati, due, l'Andreatta e il Poli, ad Auschwitz, in novembre. Capite che a gennaio Auschwitz fu liberata dai russi, anzi il 27 di gennaio. E quindi niente, la macchina organizzativa era questa, è richiesta manodopera alla Bun, a Werke o a Monowitz, e loro prendevano e caricavano 100, 500, 1000 uomini e li portavano là quando stavano arrivando i russi, insomma questa era la morale. E sono morti lì, insomma, non si sa più niente di loro. Sartorelli e Giacometti, uno a Buchenwald, un altro Sachsenhausen, sempre dello stesso viaggio. Stesso viaggio che, un viaggio drammatico, tra l'altro hanno preso un bombardamento notturno a Stoccarda, sono rimasti fermi in uno scalo ferroviario sotto le bombe. Insomma, si sono salvati lì, ma non dopo. Anche Primo Levi ricorda i deportati dai Vosgi, insomma. Fra di loro c'erano appunto i nostri due, Andreatta e Giacometti. Questo è Sartorelli, quel bambino piccolino. Qui lo vediamo una foto più grande, tolta da una lapide funebre. Questo è Poli con la sua famiglia, i figli, la moglie. È occasione delle prime comunioni in Francia, sempre. Questo boccia qua è Andreatta, Cesare. Qui lo vedete adulto, il quale per non fare il militare o per altri motivi è emigrato nel 1939. La giustizia militare lo ha processato e condannato per diserzione, però lui era in Francia, lo hanno preso nella retata in cui hanno preso gli altri tre, indipendentemente da questo fatto, e quindi ha superato il problema della chiamata di leva, ma insomma non quello della cattura e dell'invio nei campi di concentramento dove è morto. E questo è Giacometti, lo vedete qui orgogliosamente, marito di una ragazza polacca che era lì per lavorare anche lei in Francia, di origine polacca, adesso forse era già francese. Ecco, poi abbiamo sempre nel volume che raccoglie queste schede biografiche, queste brevi biografie, abbiamo anche tre deportate, Maria Brock, una ragazza di Mis, che è un paesino del Primiero, nel confine con Belluno, si è trovata a ospitare tre inglesi fuggiti dal campo di concentramento, campo di concentramento che si trovava a Forte Buso, sopra Predazzo, con l'8 settembre fuggi, e questi hanno dovuto trovare il posto dove nascondersi. E allora un favoreggiatore dei partigiani ha portato tre di questi in casa di questa povera ragazza, che è ragazza madre tra l'altro, piena di guai per conto suo, e insomma li hanno beccati lì, lei e un prigioniero di questi prigionieri, gli altri due sono riusciti a fuggire. E lei, dopo un tragitto tremendo, carcere di Roncegno, carcere di Trento, carcere di Bolzano, carcere di Bressanone, poi questo viaggio si interrompeva perché si interrompevano le linee ferroviarie, stiamo parlando della crimi del 44, insomma, gennaio 44. E poi da Bressanone a Innsbruck anche, è rimasta parecchi giorni nel carcere di Innsbruck, alla fine riesce a arrivare alla sua destinazione, che è il penitenziario femminile di Aichach in Baviera, penitenziario pieno di gloria, perché è fatto in epoca guglielmina e che è sempre servito per rinchiudere femmine. È un penitenziario femminile e che tuttora ha una sua brava funzione, insomma. Lì rinchiusero anche qualche capo, qualche Aufseherin delle SS, rinchiusero anche uno sono due delle componenti della banda Baader-Meinhof nel dopoguerra. È un carcere molto speciale. Ecco, qui si vede l'ingresso al carcere, non è così piccolo, dietro c'è tutta la struttura, con una infermiera, un personale di servizio, e voi non lo vedete bene, ma è un soldato americano. È il carcere appena liberato. Questo è un altro soldato americano che guarda incuriosito dal ballatoio del carcere, è all'interno, siamo nell'agosto, no nell'agosto, siamo nel maggio del 45. Sono riuscito a capire come mai la nipote di Maria Brocht aveva queste foto. Queste sono foto un po' anomale. Chi è che può fare? Allora abbiamo scoperto che una delle 10 circa detenute italiane aveva per fidanzato un bravo medico modenese che era passato dopo l'8 settembre dagli inglesi. Gli inglesi l'avevano arruolato ufficialmente nel loro esercito, era un maggiore inglese, e quando lui è entrato in Piemonte ha liberato Cuneo insieme all'inglese, ovviamente tutti si meravigliavano che parlasse italiano così bene, e poi aveva una passione per la fotografia, sono rimaste alcune foto anche della liberazione del Piemonte, e poi ha preso una camionetta con un autista americano, inglese, è andato ad Haifa a liberare la, perlomeno a raccogliere la. E allora questa era la compagna di cella della Brock, questa ragazza che poi si è diventata la moglie, lui diventò un bravo biologo, molto famoso a Modena, professore di biologia. Ecco le storie come si intrecciano, come sono anche così appassionanti, piene di avvenimenti e di fatti. Ecco, una nostra scoperta, vogliamo dire così, è una ragazza di Vallarsa, vicino a Rovereto, che è emigrata in Francia, la Virginia Nave. Questo nome è venuto fuori un po' per caso, perché negli archivi di Arles non c'era. Su una pubblicazione della Gazzetta Ufficiale francese si è trovato questo nome fra quelli riconosciuti come deportati, quindi aventi dei diritti e degli onori, insomma, se vogliamo dire quelli anche se morti. E quindi cerca e ricerca negli archivi del comune. Poi è stato trovato un atto notarile per cui si è potuto risalire ai parenti che sono in Francia, i quali sapevano e non sapevano, e una nipote si è messa a cercare. Si è messa a cercare, e io mi sono messo a cercare anch'io, insomma, e sono dalla Germania mi hanno mandato un documento, qui la vediamo con una figlia. Questo documento mi è stato mandato alla Germania dopo che io ho fatto questa ricerca lì sul posto, e l'archivista senz'altro mi voleva bene, dove c'è una nave, Virginie, Eugenie, insomma, il nome è scritto male, ma è lei. E lei perché? Perché lei? Perché la nipote ha trovato questo documento nell'archivio della deportazione francese, in un fascicolo dove c'erano le notizie in base alle quali l'hanno dichiarata morta in deportazione, morta per la Francia. È un documento incredibile perché porta il nome di Louise Jouot, che compare in questo elenco, e perché è una testimonianza cruda ma molto intensa, di cui vi farei leggere la traduzione da Claudia. Proviamo, sentite, sì. Mi chiamo Louise Brossu, nata a Genève. Sono stata deportata nel lager di Ravensbrück dal 4 aprile 1944 al 2 maggio 1945. Matricola 47221. Virginia Nave l'ho vista più volte. Era come... Virginia Nave l'ho vista più volte. Era come a Autun, Besançon, Sarrebruck, e Roma in via. Verso la fine del 1940. Facciamo con questa mano. Veramente non lì o là, se no entra in risonanza. Ecco. Perché c'è tutto un spazio un po' stretto. Come se lo sposto davanti al tavolo, davanti al micro. Mettete davanti al microfono perché sennò rientra dentro per me. Continua, sennò. Sennò mettiti qua in mezzo. Posso farlo un po' più avanti? Perché qui non si sente, non dà fastidio. A me no, mi sembra di no. Sì, una volta l'ho fatto anche lì. Ah sì? Grazie, scusate, ma spostando il microfono. No, il pubblico è contento perché così tira un po' il fiato. Verso la fine del 1944 l'hanno condotta a lavorare in una fabbrica sotterranea. Il 24 febbraio 1945 l'ho rivista a Neubrandenburg, ridotta a scheletro su un camion diretto al forno crematorio. Io non la rivedrò più la mia compagna, ma so che almeno il forno ha messo fine alle sue sofferenze. Questo è quanto è scritto nel documento. Ecco. Comunque è l'esempio di quanto è difficile fare una ricerca, quanto alle volte i risultati siano dovuti un po' al caso. Insomma, il nipote, anzi la moglie di un nipote della Virginia Nave che viene a passare qualche giorno di ferie in Ballarsa. L'ITS di Haraldsen che su insistenza mia tira fuori sta carta, perché non è un documento scansionato questo, dicendo che c'è qualcuno che ci assomiglia come nome, la moglie del nipote che va a cercare i documenti di un archivio, dove trova come responsabile dell'archivio, mi pare a Con, un suo allievo di scuola, perché è una professoressa in pensione. Quindi tutto si è cucito insieme e abbiamo recuperato un frammento di storia di questa povera Virginia. Tra l'altro anche in questo caso si trovano collegati Prima Guerra Mondiale, emigrazione, povertà, situazioni familiari difficili. La sua famiglia durante la Prima Guerra Mondiale è stata sfollata in Italia, nel Regno d'Italia, in Liguria, dalle truppe italiane. Lei è andata con i genitori, è emigrata in Francia, però i genitori non trovavano lavoro e sono emigrati in Brasile. E lei è rimasta in Francia perché viveva con la persona che gli ha dato i due figli che sono un po' la causa della sua tragedia, nel senso si trovò poi operaia a una manifattura di ceramica a Paray-le-Monial. Lì c'era una forte concentrazione di attività antinazista contro gli occupanti nazisti, e quindi hanno fatto un rastrellamento e l'hanno presa al posto dei due figli, e quindi l'hanno portata via. E Romainville è un carcere non tanto famoso ma famigerato di Parigi, dove rinchiudevano i prigionieri politici prima della deportazione, molti anche ebrei. Ecco, una terza deportata. Sono poche le deportate nel nostro elenco, molto di più sono quelle che si sono fermate nel lager di Bolzano. E interrompo un momento per dire, speriamo di riuscire a fare un lavoro analogo per tutti i nostri trentini, e fra questi moltissimi bolzanini di nascita trentina, che si sono fermati in lager Bolzano senza essere trasportati oltre Alpe. Sono altri 150-170 nomi che stiamo mano a mano costruendo con fatica, ma insomma, tra l'altro destini meno cruenti, e quindi anche dimenticati forse prima quegli avvenimenti, periodi di detenzione nel lager più brevi. Speriamo di arrivare magari fra un anno a presentare un altro lavoro del genere. Poi Bolzano, siamo in casa, insomma. Beh, sì. Ecco, la terza è Maria Emilia Santomaso, è impiegata, anche lei origine valsugana, emigrata a Milano, impiegata da Borletti, una grande fabbrica di Milano, anzi aveva gli stabilimenti in centro a Milano, che faceva strumenti di misura, apparecchiature di precisione. Partecipa agli scioperi del marzo 1944, i famosi scioperi operai di Milano, e quindi entra a far parte di un forte gruppo di operai impiegati arrestati per rappresaglia e condotti prima in carcere e poi a San Vittore, poi a Bergamo, e da Bergamo trasportata verso Mauthausen, dove transitata senza essere immatricolata, ha proseguito per Auschwitz ed è stata immatricolata ad Auschwitz. La sua fortuna è stata quella di far parte di uno di quei famosi trasporti di convogli, richiesta di manodopera femminile da parte di un'azienda che faceva apparecchiature elettrotecniche, elettroniche di precisione, la Lorenz. Ancora adesso forse c'è qualche apparecchiatura Lorenz che gira nel mercato delle apparecchiature elettroniche, che aveva trasferito tutte le sue unità produttive da Berlino bombardata a Mittweida, una cittadina della Sassonia vicino a Chemnitz, fra Chemnitz e Dresda. Quindi richiedevano manodopera, una cosa tedesca, hanno preso 500 deportate da Auschwitz e le hanno trasportate a Mittweida, anzi Flossenbürg, lager principale, immatricolate di nuovo a Flossenbürg e poi trasportate a Mittweida. Lei è una di quelle 500, la maggior parte sono russe, poi polacche, e poi ci sono una trentina di italiane, una tedesca, perché non dobbiamo dimenticare che qualche oppositore era anche tedesco e che ha fatto la fine degli oppositori, cioè è stato sempre, se non ucciso, portato nei lager, rinchiuso, e fin da prima, insomma. In ogni caso si è salvata la vita perché lì non è stata bombardata questa cittadina. Gli ultimi giorni di guerra, la sua liberazione è avvenuta in modo avventuroso, fortunoso. Degli storici hanno ricostruito questo, altri hanno raccolto testimonianze, soprattutto delle russe, e noi abbiamo provato a ricostruire gli ultimi giorni di deportazione della Santomaso, della Maria Emilia Santomaso. Abbiamo pensato di metterla in prima persona per renderla più efficace. È una nostra ricostruzione sulla base di documenti molto attendibili, la farei leggere ancora a Claudia. Verso la metà di aprile il lager di Mittweida è stato sgomberato dai tedeschi. Ci hanno costretti a marciare a piedi fino a Freiberg, che dista un giorno di cammino da Mittweida. Qualcuna di noi non era in grado di affrontare questa marcia ed è rimasta a Mittweida. E quando siamo partite abbiamo sentito degli spari. A Freiberg siamo state caricate su carri merci aperti. Il treno si è mosso verso il confine ceco. Dopo una cinquantina di chilometri il treno si è fermato. È rimasto fermo 3 o 4 giorni. Eravamo stanche, senza nulla da mangiare e da bere. Avevamo freddo. Poi il treno si è messo nuovamente in marcia e siamo arrivati in territorio ceco 12 giorni dopo la partenza da Freiberg. Ogni tanto sentivamo il suono cupo dei cannoni. Forse erano i russi che avanzavano. Il 2 maggio eravamo a Praga. Ci annunciarono che i russi erano entrati a Berlino. Le SS ci hanno abbandonate su un binario morto dove siamo rimasti ancora 5 o 6 giorni. Scendevamo per fare i nostri bisogni e per cercare qualcosa da mettere sotto i denti. Erbe, qualche germoglio. Eravamo allo stremo. Per fortuna i ciechi ci hanno aiutato dandoci qualcosa da mangiare. Erano ormai diversi giorni che avevamo abbandonato Midvaida. Finalmente sono arrivati i russi che ci hanno soccorso. Le russe e le polacche sono andate con i russi. Noi italiane, le croate e le tedesche siamo state portate a Budweis e consegnate agli americani. Ci hanno raccolto in un campo a Vels, vicino a Linz. Da lì ho potuto far giungere notizie ai miei cari tramite la Croce Rossa. Era ormai il mese di giugno. Ho scritto che stavo bene per non spaventarli, ma ormai ero ridotta a uno scheletro. Pesavo 35 kg. Il 27 giugno finalmente ero nuovamente a Milano e ho potuto abbracciare mia figlia e mio marito. È sopravvissuta, ma ne ha passate di brutte. Ecco, questo è il biglietto che lei ha fatto avere l'11 giugno dal campo di raccolta di Vels, vicino a Linz, campo di raccolta gestito dagli americani. Velocemente ci sono 3 deportati nel RAI che sono stati ospiti del lager di Viareggio, del lager di transito. De Gasperi, Cavazzani e Leonardelli. De Gasperi era un trentino di nascita, di famiglia trentina, di Mattarello, ma era bolzanino, viveva qui, e i suoi figli vivono tuttora qui, sono qui a Bolzano, sono viventi. Ecco, li vedete qua bambini. Era capo della manutenzione del magnesio e faceva parte di quelle cellule di resistenza all'interno delle fabbriche, la Lancia, il magnesio, le acciaierie. E quindi è stato arrestato insieme ad altri, praticamente è stato decapitato questo movimento, perché i più importanti oppositori che curavano queste cellule all'interno delle fabbriche sono stati presi e portati nei lager. Qui lascia un biglietto che cade dal treno in via Pacinotti, insomma, dove salivano quelli che venivano trasportati. Lo indirizza alla moglie e le dice di tenere da conto i 2 figlioletti, insomma. E lui è morto a Mauthausen. Il Livio Cavazzani è un ragazzotto che qui dentro lo vedete in centro, alla sinistra, per chi guarda, in secondo piano, alla sinistra di quello che ha il cappello, una famiglia numerosissima di Avio, che ha trapiantato dei rami anche a Bolzano, tanto è vero che il direttore dell'Alto Adige è stato per lungo tempo un Cavazzani, e uno di questi rappresentati qui. Famiglie naturalmente avevano all'interno il costruttore edile, il papà del Livio, lo zio di Livio che poi divenne direttore dell'Alto Adige, qualcuno che invece era di fede un po' più fascista, insomma, come in tutte le famiglie era difficile dividere, qualche volta si creavano anche delle spaccature tremende all'interno delle famiglie per ragioni politiche. Questo ragazzotto era appena andato sotto la naia e non voleva far la fine dell'internato militare portato in Germania. Allora si è rifugiato dal padre, che aveva un'industria, un'impresa, chiedo scusa, che operava in regime di forniture belliche, quindi aveva un certo un trattamento di favore. Però il padre non è riuscito ad assumerlo perché ne aveva già diversi. E allora andò da un cugino a Innsbruck, dove aveva commercio di vini, però non doveva lavorare, quindi lui ha voluto tornare, lo hanno dissuaso, insomma è tornato giù, poi ha voluto unirsi con i partigiani, è andato su Montebaldo a cercare i partigiani, che però c'erano, non c'erano, è rimasto ferito in circostanze che ancora non sono chiare oggi. I tedeschi l'hanno saputo, il padre è andato a prenderlo, l'ha portato all'ospedale, i tedeschi l'hanno piantonato. Lui ha cercato di danneggiare ulteriormente la propria frattura, la gamba, la ferita alla gamba, tedeschi hanno aspettato e quando hanno potuto l'hanno preso e l'hanno portato a Mauthausen. Lui ha ricordato nel libro di Pantozzi, l'altro Bolzanino, tanto per restare in zona, perché lo ha trovato in questo reparto di lavoro qua a Natale che si chiama Weberei Tessitura, dice, facevano delle spuoie con i resti dei copertoni e mi ha detto questo ragazzotto, insomma, questo ragazzo, questo giovanotto, e mio padre lo dice sempre, quando moriremo di fame finirà la guerra. Lui comunque è morto di stenti e non è più tornato. Ecco, lo vedete un giovane, va a cominciare con la scuola giovane del Rovereto. Ecco, questo è un maestro, di scuola elementare. Qui lo vedete con la moglie, è rimasto vedovo presto con tre figli. E lui veniva continuamente spostato da una sede all'altra perché non aveva sentimenti antifascisti in sostanza, pur essendo un pezzo di pane, no? Di una bontà, e lo vedete anche dalla faccia, però l'hanno fortemente ostacolato, l'hanno continuato a trasferire e ultimamente si trovava a Carbonare, mi pare, o a Lavarone, insomma, in qualche posto del genere. E nella pausa dell'insegnamento alla scuola elementare andava in trattoria e lì con un collega deve aver manifestato come dire, lo scetticismo sull'esito della guerra. L'hanno sentito, l'hanno denunziato, insomma, lo hanno arrestato in classe durante la lezione, l'hanno portato prima a Roncegno dove c'era una specie di centro di raccolta di tutti quelli che venivano arrestati. Da lì riesce a far avere la prima notizia alla famiglia, ai figli, e scrive una lettera da Roncegno il 28 novembre a preleggere a Armando. Ma io provo a vedere. Se mi sentite, provo. No, se no. Roncegno, 28 novembre 1944. Carissimi, vi faccio sapere che per affari imprevisti mi trovo qui a Roncegno nella caserma dei carabinieri. Se potete, andate a Lavarone a prendere le mie poche robe che mi sono rimaste lì. Domandate dove sta il maestro Giongo in pensione. Andate pure dalla maestra D'Antoni, Gaspari, Costantina e fatevi dare i denari che vi spettano. Se c'è Elio, dite che vada a lui e se no alla Renata, con qualcheduno. Di salute sono sano. Ricordatevi di me. Che vi sarò grato. Vi scriverò più specificatamente un altro momento. Vostro padre, Simone Leonardelli. Non state a prendervi fastidio che al presente non mi è successo niente. Non state subito a scrivermi perché non so se la riceverò. Vi scriverò in seguito. Addio, vostro padre. Ecco, da Roncegno viene trasportato a Bolzano nel lager e da lì a Mauthausen. Da Bolzano riesce a far avere un paio di lettere a casa, l'ultima delle quali è il giorno della partenza per Mauthausen, è quella dell'8 gennaio che leggiamo insieme. Bolzano, 8 gennaio 1945. Carissimi figli e cugine, vi partecipo che oggi partiremo per la Germania. Non speditemi più niente. Da voi non ho mai ricevuto notizie. Vogliatevi bene sempre. Vado incontro alla mia sorte. Pregate tanto anche per me. Fate il vostro dovere sempre. Non preoccupatevi di me. Guardate di fare alla meglio. Preoccupatevi da vivere meglio che potete. Ubbidite alla zia, fatevi aiutare dagli zii, informatevi dal regio provveditore agli studi se posso o meno ricevere lo stipendio che credo di sì. Domandate al direttore didattico di Pergine, Benedetti, che domandi lui. Egli sta a Brazzaniga, giù all'osteria. Domandate che chieda lui al provveditore. Dite che sono internato politico e che lo stipendio credo di riceverlo. Domandate anche per l'assicurazione di Elio e tirate da fuori che sono già 14 anni che pagava per il provveditorato. Renata, Elio, Assunta, Anna, vi saluto tanto tanto. Speriamo di rivederci ancora. Saluti cari ai miei fratelli e sorella e cognati e nipoti tutti e alla suor Mary. Dio ci aiuterà. Coraggio, vostro padre. L'8 gennaio. L'8 gennaio è sul convoglio che lo porterà a Mauthausen, dove viene immatricolato col numero 115563. Finita la guerra, liberato il campo dagli americani, i figli tentano in mille modi, ma invano, di avere notizie certe del padre. Solo nel 1952 la Croce Rossa austriaca li informerà che è deceduto in un ospedale da campo americano il 16 giugno 1945. Due nomi ricordati di sfuggita meriterebbero molto di più. Vi ricordo perché Emilio Dal Lago di Bolzano, trentino di nascita, ma era impiegato alla compagnia del turismo, la CIT mi pare, e aveva sposato una ragazza di madrelingua tedesca, insomma più bolzanino di così. Ballerin lavorava alla Lancia di Bolzano, quindi non sono nomi citati a caso, ma evidentemente perché fanno parte della nostra, del nostro passato di Bolzanini. Dal Lago pure lui si era messo in cattiva luce con gli ambienti nazisti della città. Qualcuno, una prima volta lo hanno rilasciato, qualcuno gli ha detto guarda che Tirali è cattiva per te, e lui si è riparato a Cesena, fuori lì da quelle parti lì. Chissà dove, non sappiamo, non sanno neanche i parenti. La figlia vive tuttora a Bolzano. E però lì i militi fascisti della Repubblica Sociale lo hanno arrestato, l'hanno portato nel carcere a Bologna, e da Bologna, carcere di San Giovanni in Monte, mi pare, carcere famoso, da lì l'hanno portato a Fossoli, campo di concentramento vicino a Carpi, e da Fossoli a Mauthausen, ha girato per 2-3 sottocampi in condizioni terribili di lavoro, e poi è morto nel marzo del 45. Qui lo vedete insieme al fratello che muore in montagna, prima della guerra è morto in montagna, e insieme ad altri due bolzanini, adesso non mi sfugge il nome, uno era direttore del dispensario antitubercolare, mi pare si chiamasse Martinelli, forse sì, proprio lui, i due fratelli Martinelli e i due fratelli Dal Lago. Questo è un biglietto che la famiglia ha ricevuto nel gennaio del 46 da Linz, da un compagno di prigionia di Mauthausen, anzi di Gusen per essere precisi, che è un sottocampo di Mauthausen lì vicino. È un austriaco che era anche lui internato e che ha promesso all'amico morente di avvertire la famiglia. E infatti scrive, dice scusate se non l'ho fatto finora, ma c'era il blocco del servizio postale. Questo è l'operaio della Lancia, qui lo vedete in una foto operaia alla zona industriale, in mezzo c'è Don Angelo Longhi che è un personaggio di quel periodo. Prego. Daniele, scusi, Angelo come nome di battaglia, allora ho mescolato le due cose. E scrive all'amorosa, speriamo di vederci presto, ho parlato della nostra situazione perché non è riuscito a sposarsi per tempo, lo hanno arrestato. lui era operaio alla Lancia, l'ho detto, e aveva ricevuto il foglio di leva tedesca, insomma, a presentarsi, e invece non ce l'hai sentita, insomma, dopo. Aveva questa ragazza lì nel suo paese, nel Tesino. Questa è una storia così originale, così impressionante per il carattere di avventura, per cui la presento proprio in questo modo. È un nativo di Sfruz, che poi è qui, dietro il crinale della Mendola, ed è morto da Cao passando per Vladivostok, per la Galizia, per Vladivostok, per Trieste, per la Francia dove era militato, Lussemburgo, per la Spagna dove ha partecipato alla guerra civile. E poi tornato, è stato messo al confino a Ventotene, graziato dopo il 25 luglio alla caduta del fascismo per atto di clemenza del governo Badoglio, ma sempre sottoposto a opportuna vigilanza, così dicono i documenti. Vide qualche effimero giorno di libertà vigilata a Sfruz, e poi arriva il 9 settembre e lo prendono e lo portano in Germania in condizioni disastrose di salute. Si trovava già da per conto lui, poi immaginarsi, a Dachau, poi l'hanno messo a lavorare in una fabbrica ad Augsburg, sotto campo di Pferze, nomi sono precisi perché si trovano poi sui documenti. I 10 giorni prima dell'arrivo degli americani liberatori è deceduto. Qui lo vedete in una foto segnalettica, ricavato dal fascicolo di polizia, insomma, fascicolo dei radiati, cioè di quelli per i quali non c'è più bisogno di avere vigilanza, e quindi era stato archiviato. C'è una lettera dei carabinieri di Taio che dicono: in relazione al parte di Guido si certifica che non si è più visto dopo guerra, che da voce pubblica sembra morto in Germania. Ecco, prima sapevano di lui ma delle cose, ma se voi leggete i verbali, sapevano di lui ma delle cose che nessuno sa: quanti giorni era stato condannato per una lite in Lussemburgo, cosa aveva fatto in Germania, cosa aveva fatto in Francia, cosa aveva fatto in Spagna, con chi ha combattuto. Però questo è un documento di qualche anno dopo, 51, 49, 51, non ricordo esattamente. Da voce pubblica si dice che sia morto in Germania. Ecco, questa è la memoria che si ha delle... Questo non è un eroe, ma ne ha viste di tutti i colori. Qui vediamo una foto, prigionieri austriaci, molti trentini, in Galizia. Lui è uno di loro, insomma, adesso non vi so dire quale, non so dire se che sei in questa foto, ma insomma... Il contesto è quello. Qui lo vediamo partire come redento da Vladivostok nel 20, insomma, la guerra finita un pezzo, ma lì erano rimasti giù per dare una mano a chi combatteva i bolscevichi, qualcuno poi è andato a Tienzin, eccetera. Finalmente noleggiano un po' di navi giapponesi e portano questi trentini e giuliani dalmati in patria, nuova patria, solo che la vita è grana, e quindi lui emigra. Il paese era poverissimo, il Trentino, il primo dopoguerra. Emigra, va in Francia, dopo qualche anno di lavoro si trova disoccupato e assiste a un comizio di un deputato socialista che gli invita ad andare a combattere in Spagna, e lui si arruola, combatte a Madrid. Qui vediamo, resta ferito, viene congedato dall'esercito rosso, chiamiamolo così, però rimane lì, aiuta in una mensa di ufficiali repubblicani, insomma, quindi, tanto se la cava col russo, se la cava col nonno, se la cava col tedesco, con l'italiano, col francese, con lo spagnolo, non aveva problemi di capire che bibita doveva portare quando gli ordinavano. Poi finisce in un campo di raccolta dopo la retirata, dopo la fine della guerra spagnola, apparentemente un campo ospedale, in realtà era uno dei peggiori, quello di Noé. Qui lo vedete in una foto rara, insomma, che ho beccato come te, su internet, come sempre. e poi si presenta alla frontiera, perché lo cacciano dalla Francia, alla frontiera di Ventimiglia, e lì lo mandano a Trento lo sottopongono a procedimento che decreta il suo confino a Ventotene. Il medico delle carceri di Trento dice: guardate che non, questo qui ha la nefrite, non sta bene, insomma, però dicono che il confino Ventotene era una mezza villeggiatura e quindi l'hanno mandato giù a guarire, non lo so. Comunque è stato trattato male dal destino. Chiuderei, perché insomma il tempo stringe, con una cosa un po' curiosa, nel senso che non parliamo dei campi di concentramento nel 44-45, ma Mauthausen 10 anni dopo. Noi abbiamo avuto in consegna, in donazione, un fondo di una signora roveretana, tuttora vivente a Ginevra, che aveva partecipato a una missione francese di recupero delle salme e di riconoscimento, recupero delle salme dei morti a Mauthausen che non erano stati cremati, perché gli ultimi giorni il forno crematorio non funzionava, e poi moltissimi sono morti nei giorni immediatamente successivi alla liberazione, non ce l'hanno fatta a sopravvivere dopo la liberazione. E in questo dossier ci sono molte notizie interessanti, l'abbiamo poi consegnato al Museo Storico di Trento, dove è un fondo archivistico di una certa importanza, ci sono dei registri originali con i nomi, ci sono, che so, tutte le schede autoptiche di questi corpi riesumati. Ecco, questa era una torre a Gusen, questo invece è l'edificio di Mauthausen, dove avevano gli uffici e i laboratori questi francesi. Tra l'altro, ecco, qui la vediamo, la nostra roveretana, e il medico francese che era stato incaricato di fare tutte le ricognizioni sulle salme. È un ricordo terribile di quel periodo, però la deve aver sostenuto. Lui non so che coraggio ha avuto, perché lui era un deportato di Dachau, che si è liberato. Voi vi ricordate quell'elenco, quella lista di trasporto dove c'era questo nostro Grof e questo Fully George studente? Beh, è il Fully George che poi si è laureato in medicina ed è diventato medico ed è stato incaricato di questo incarico di medico legale in questa missione. Beh, lì si sono conosciuti, poi si sono sposati naturalmente, e il lavoro era impegnativo e consistito nella risumazione di non so quante migliaia, di fare 10.000. Ci sono anche 400 italiani, e poi le salme riconosciute e composte sono state trasportate con tutti gli onori in Francia per i francesi e di nuovo seppellite nei sacrari, nel cimitero militare di Mauthausen, per gli italiani. E evidentemente non c'erano i denari per... Ecco, naturalmente chi era finito in cenere si trova in questo cumulo che è stato poi reso sacro, insomma, da questo semplicissimo monumento. Qui giacciono le ceneri di chi è morto, e qui vedete, insomma, Mauthausen 10 anni dopo. Fra queste salme riconosciuta, con il suo numero di matricola, con le sue caratteristiche anatomiche, eccetera, c'è quel Simone Leonardelli, di cui abbiamo parlato prima, perché evidentemente gli americani non avevano tempo per seppellire questi migliaia di cadaveri, quindi facevano fosse comuni, insomma. Poi loro li hanno trovati, riconosciuti e riesumati, e gli è andato su una sepoltura, insomma. Così finisce questa storia con, lo so, è triste, però insomma almeno qualcuno che riesce a sorridere su una tragedia di questo genere, e non è una persona insensibile, anzi, lei era stata assegnata alla missione italiana in Germania, e sapeva le lingue, ha fatto scuola in Inghilterra, sapeva benino il tedesco. E quando si trattò di organizzare questo intervento, questa missione a Mauthausen, gli italiani non avevano la forza e hanno chiesto ai francesi di farlo per noi. E avrebbe dato una persona di collegamento. Ecco perché è lì, e i francesi hanno fatto tutto quanto, e lei ha lavorato duro con questo dottor Fulghi per il riconoscimento del Salto. Ce ne sono quattro dei trentini riconosciuti da loro in queste fosse comuni, e uno è appunto Simone Leonardelli. Ecco, io chiuderei qua perché per questo argomento qua non è poi fra i migliori, ma se avete delle domande, se avete delle curiosità da chiedere, qualche notizia, sono qua per questo. La grande ricerca che contiene anche parte, la buona parte di questa è durata di 8 anni, 6, 7 anni. Poi da questa follow up è stato portarla a termine, e ci sono voluti altri 2-3 anni specificatamente su questa. Gruppo di lavoro non eccessivo, perché insomma abbiamo i progetti grossi da portare avanti, ma siamo riusciti lo stesso, io ci ho dedicato molto tempo. Poi c'è l'aiuto dei nostri collaboratori del laboratorio. Ad esempio, noi, tanto per stare a Bolzano, avevamo un nome di cui riuscivo a trovare pochissime notizie e non una foto, perché la famiglia Rella di Folgaria, sto parlando di Ezio Rella, morto a Mauthausen, la famiglia Rella di Folgaria, quel ramo lì si era mezzo estinto, insomma. E io non sono riuscito a venirne a capo. Ho ricevuto da una persona molto colta e molto attenta di Folgaria un'informazione generica. Ho ricostruito qualcosa, dunque questo era un componente dei vigili del fuoco volontari di Folgaria, che però in quel periodo erano militarizzati. Lui e un collega devono aver combinato qualcosa di grosso. Qualcuno in paese si dice che forse hanno appiccicato fuoco per prendere poi il premio, non lo so, per essere accorsi in tempo, non lo so. Cose che succedono non da noi di solito. E allora per punizione l'hanno mandato a Bolzano, dove faceva la guardia al lager di Bolzano. Bene, lo hanno accusato di essere troppo buono con i detenuti e per punizione l'hanno preso e l'hanno mandato a Mauthausen. Non avremmo mai un'immagine di questo, ho pensato. E invece ho incaricato l'Armando, ci penso io, arrivo, ecco questo è. Sono rimasto veramente stupito, no? Adesso il suo nome sul libro ha la sua immagine, ma quello che mi ha stupito di più è che lui me l'ha portata dicendo l'ho trovata con naturalezza, come se fosse una cosa facile. Insomma, è così che nascono le cose. Per lui è stato relativamente facile, perché dico, telefono a quell'amico lì che si interessa di storia, che deve essere mezzo parente Rella, Raffaelli, no, Rella anche lui, sì, telefono a quel Rella lì, quel Rella lì è venuto fuori con la foto del Rella Ezio, insomma, che tra l'altro si vede un ragazzo molto moto, va bene, le foto sono quello in mezzo, sono messe, diciamo, ci si mette un po' in posa, però si vede un volto, è uno dei nostri, molto normale, insomma. Naturalmente fu fatto un processo dopo guerra di certi fatti del campo di Bolzano, e ci fu una testimonianza, o anzi più di una testimonianza, che hanno raccontato questo episodio. Punito perché trattava troppo bene i prigionieri. Ecco, capite come siamo fuori da ogni logica. E certo c'era Miscia e Otto, vabbè, insomma, sappiamo. Anche questo è un piccolo tassello, però è così che sono venuti fuori questi nomi. Un'ultima osservazione: sono i due arrivati dopo la pubblicazione. Noi non abbiamo fatto una malattia, io che sono stato coordinatore della ricerca non ho fatto una malattia, non potevamo saperlo. E qui chiudo anche proprio bene per il giorno della memoria. Una scolaresca di Torino, istituto per geometri, ha fatto un viaggio Majdanek in Polonia, dove c'era un lager di quelli pesanti, mezzo di concentramento e mezzo di annientamento. E i ragazzi sono stati molto attenti, molto, hanno recitato la loro parte con interesse, sono stati colpiti, le professoresse erano molto brave, un professore, una professoressa, un professore. L'archivista responsabile di questo lager, mentre stavano per tornare a Torino, li ha rincorsi dicendo: guardate, visto che avete questo interesse nel modo giusto, vi do l'elenco degli italiani di Majdanek. E questa professoressa con questi studenti si è messa a cercare e ha fatto questo lavoro per quei 500, questo lavoro, un lavoro simile a questo anche, direi, devo dire, migliore da molti punti di vista, un lavoro raro di, con una cocciutaggine, una determinazione incredibile di tutti, quasi tutti ha trovato le notizie biografiche. Sono 500 italiani completamente dimenticati. I due nostri, dico i nomi per capire, uno si chiama Fontanari, che ha le origini valsugana, vergine, e l'altro si chiama, dunque, Fontanari, e uno è di Noriglio, è un prosser, nome tipicamente loveretano, e non siamo riusciti a trovare le foto. Questo prosser, abbiamo capito, insomma, una difficoltà anche della famiglia. Erano sotto l'esercito italiano e dopo il 9 settembre sono stati presi, anziché internati militarmente, sono stati immatricolati nel lager di Neuengamme, vicino ad Amburgo, e da Neuengamme sono stati trasferiti a Majdanek e lì sono morti. Non ne sa niente anche Aronsen, insomma, non ci sono sul libro di Mantelli, non potevamo saperlo. Però questo è un modo per ricordare e per onorare la ricorrenza. Una scolaresca, una professoressa che si impegnano e lasciano di stucco anche gli storici, portano il loro tassello, insomma. E io devo dire, vabbè, non ci sono, ma adesso ci saranno. Tra l'altro i nostri sono tutti in un database, in internet, volendo il nostro sito, uno può consultare i nomi e anche queste schede, anche le foto dove ci sono, e lì ci sono anche questi due di Majdanek. Ci avete qualche domanda? A me viene di dire ancora qualcosa, ma vedo dimenticare mai di Thaler, no? Quel librettino rosso. Sì, eccezionale secondo me, io l'ho conosciuto anche di recente, che è stato festeggiato con tutti gli onori. Beh, è un, sostanzialmente un disertore che si consegna per evitare alla famiglia guai maggiori, finisce a Dachau, ma è un Dachau un po' speciale, è quel Dachau che c'è lì anche per 10 dei nostri trentini. Cioè era un carcere di punizione, un lager di punizione delle SS, che era ubicato all'interno del campo principale di Dachau, ma non dipendeva, non aveva niente in comune, dipendeva dalle SS che gestivano questo e avevano funzione specifica, riabilitare questi militari per poterli mandare in Russia a difendere il suolo patrio. Avevano in comune poche cose, credo l'infermeria, uno dei nostri si è dovuto fare una lastra perché stava male, e questa è conservata da Aronsen perché è uscita dall'ambulatorio del campo principale, e quindi è un documento che è stato conservato nel campo principale. Però non è che abbiano meno onore degli altri perché non erano civili, insomma, o erano militari in un certo senso. Tra l'altro la sua testimonianza è bellissima. Quindi anche noi abbiamo messo 10 di questi. Non sono deportati in senso stretto, però il significato è quello. Ecco, non ci sono ebrei. Trentini ebrei, gli ebrei trentini arrestati nel Trentino ci sono, noi li abbiamo messi perché le loro origini sono molto lontane, sono del centro Europa, della Galizia, della Polonia, Ungheria, Boemia. Faremo anche quali, beh, sul diradarsi dell'oscurità c'è un capitolo discreto in cui ci sono nomi e storie di questi ebrei arrestati nel Trentino. Però non ce n'era nessuno trentino oramai acquisito da più anni, insomma. Ecco perché non li troviamo e perché ho parlato